non ha spigoli, una rotonda. Se non cambi tu non sarà lei a farti sbattere contro un muro di gomma. Torni indietro, non devi mai farti abbattere. Se no, mento, se dico torno, no prop, sei fake bro. Sto a posto già, perché dopo penso e ripenso che ho perso sto senso di me. So, ok, non voglio press. Frate te perdi i capelli a pensare. So, ok, ti ascolterà nessuno se parli a bassa voce anche quando parli con te. Non ha spigoli, una rotonda. Se non cambi tu non sarà lei a farti sbattere contro un muro di gomma. Torni indietro, non devi mai farti abbattere. Se no, mento, se dico torno. Perso sto senso di me, stay with me mademoiselle. Ho posti nella testa che non so il perché, ma spezzan le gambe come sigarette. Se la testa chiama ci penso due volte a stare high. Stare high per sempre, capirai, sta gente, yeah. A bad vibes, internet è uno smile per un like, poi sei sad. Se no, mento, se dico torno, no prop, sei fake bro. Non sto a posto joint, perché dopo penso e ripenso che ho perso. Se no, mento,